Botanic 10.0, arriviamo al decimo anno di programmazione del festival, del nostro festival estivo, dal 14 giugno al 27 di luglio. Anche quest'anno, per celebrare 10 anni di attività, abbiamo fatto un programma molto molto qualificato di concerti. Saranno 27 serate di concerti, di cui 7 a pagamento e 20 gratuiti, con musica che spazia su tutti i generi, da tutte le nazioni. Come sempre ci saranno appuntamenti di rilievo internazionale, viene da citare il gruppo Compay Segundo, Nouvelle Vague, Brass Against, che apriranno la manifestazione gratuitamente venerdì sera. Programmazione incentrata sulla musica, anche cinema, anche tante altre attività, per un festival ormai consolidato negli anni, che tutti gli anni cresce un po' a livello di numeri, di importanza e soprattutto di presenze. 50.000 le presenze dello scorso anno, quest'anno contiamo di superarle ampiamente, proprio perché la programmazione è ancora più bella e qualificata degli altri anni per questa decima edizione. Rimane questo dubbio su cosa fare i prossimi anni, nel senso che l'idea era quella di trovare uno spazio dove poter fare una serie di eventi che, per una serie di limiti oggettivi che ha quello spazio, non possiamo fare, anzitutto legati ai volumi e alla capienza del posto, per cui se ci saranno le condizioni di trovare un luogo per sviluppare una programmazione ancora più importante con numeri più grandi, ben venga, altrimenti siamo ben contenti di rimanere a Botanic. Un'edizione del tutto plastic free? Edizione del tutto plastic free, ci mettiamo avanti rispetto a questa opportunità, nel senso che comunque dal 2021 sarà obbligatorio. L'idea era quella di gettare il cuore sotto l'ostacolo, già da quest'anno togliere completamente la plastica, ridurre quindi il 90% della produzione di rifiuti e il restante 10% farlo solo con compostabile, in modo da sostanzialmente annullare completamente la produzione di rifiuti in un festival. Parliamo di numeri importanti, perché lo scorso anno erano 25.000 i bicchieri di plastica sostanzialmente che hanno prodotto rifiuti e 5.000 le bottigliette d'acqua. Verrà tolto completamente la plastica, sostituita da bicchieri in policarbonato lavabili e quindi completamente riutilizzabili, in modo da avverare il problema della plastica e lanciare un segnale che diventerà comunque un obbligo, comunque un dovere da parte di tutti da qui a breve. Ricordiamo anche la collaborazione con le mamme africane. Esatto, abbiamo questo progetto sviluppato ormai da 4-5 anni assieme al CEFA, parliamo del Boafric, quindi una settimana dedicata alla cultura e alla musica africana. Sarà la penultima settimana del festival, con tanti appuntamenti importanti con musica ovviamente dall'Africa, e un fine benefico che è quello di sviluppare progetti assieme al CEFA in Tanzania e in altre nazioni povere del centro Africa. Tre appuntamenti imperdibili. Tre appuntamenti imperdibili, ti dico: Brass Against all'inaugurazione, perché sono veramente originali, sicuramente gruppo Compay Segundo, perché è la leggenda del Buona Vista Social Club, e come terzo appuntamento ti direi Giovanni Lindo Ferretti, perché farà interamente il repertorio di CCCP quest'anno.